sei. DJ Ro al beat. Non c'è mai un'ultima volta. Madman. Io giuro non lo so per niente, non mi sono mai risposto. Dopo essermi chiesto sempre cosa avrei fatto al tuo posto. Ma il mio racconto eretico è per me l'amore un mostro. È vero solo se è patetico e se non è corrisposto. Io volevo la più bella, ogni istante, ogni momento. Credevo fosse la stella più grande del firmamento. E invece adesso mi pento, l'amore non è cemento. Poi questo fottuto tempo fa scempio di ogni frammento. So che la vita è dura e non è facile, vivendo la clausura in quattro mura di pensiero impenetrabile. Resisto e guardo il cielo sotto una doccia di lacrime. Ma goccia dopo goccia anche una roccia è malleabile. Non esiste scudo, con gli occhi già ti penetro. Dopo quando li chiudo mi immagino dentro un feretro. Perciò sono l'unico dio che venero, con una mente da cerebro leso che ha il peso di un esoscheletro. Non so se ce la farò, o se sto solo perdendo il mio tempo. Se la sto prendendo nel modo sbagliato, ma so che è sbagliato e lo sbaglierò. Se ce la farò, o se sto solo perdendo il mio tempo. Se la sto prendendo nel modo sbagliato, ma so che è sbagliato e lo rifarò. Adesso i brividi ed un'anima in pena piena di lividi. E troppi pensieri simili a troppi sentieri ripidi. E diversi versi ibridi, figli di sogni vividi. Di bisogni, di limiti, scritti su fogli insipidi. Ti dichiaro oscuro mentre fumo fino all'alba. Frantumo il mio passato, poi ne riassumo la salma. Per questo conto i battiti di un cuore accelerato, mentre alterno l'odio ad attimi di amore scellerato. Non lo sai quante ne ho viste, convinto di dargli il cuore, proiettando il mio stress nel futuro come asimo. Ma so che non esiste l'algoritmo dell'amore, poi per questo le mie ex di sicuro non le biasimo. Con gli occhi nero intriso di sudore e combustibile, ora guardo il tuo sorriso e non credo che sia possibile. Un dolore incurabile come il mio, ora so che è invisibile, in odore impalpabile come Dio. Non lo so se ce la farò, o se sto solo perdendo il mio tempo. Se la sto prendendo nel modo sbagliato.